Il terzo anello ad alta voce. Memorie di Adriano, di Margheriti Ursenar. Ero deciso a reprimere quei torbidi di frontiera con mezzi meno banali che le legioni in marcia. Fu combinato un incontro di persona con Osroe. Riconducevo in Oriente la figlia dell'imperatore, fatta prigioniera quasi in culla quando Traiano aveva occupato Babilonia e poi trattenuta a Roma come ostaggio. Era una ragazzetta gracile e dai grandi occhi. La sua presenza e quella delle sue donne mi fu di qualche impaccio durante quel viaggio che si doveva, oltretutto, compiere senza indugio. Quel gruppo di creature velate fu sballottato a dorso di cammello attraverso il deserto siriaco, sotto un baldacchino dalle cortine severamente abbassate, e ogni sera, alle tappe, mandavo a sentire se la principessa desiderava qualcosa. Mi fermai un'ora in Licia per convincere il mercante Opramoas, che aveva già dato prova delle sue eccellenti qualità di negoziatore, ad accompagnarmi in territorio partico. Per mancanza di tempo non poté sfoggiare il suo lusso abituale. Quell'uomo infiacchito dall'opulenza era tuttavia un ammirevole compagno di viaggio, avvezzo a tutti gli imprevisti del deserto. Il luogo dell'incontro si trovava sulla riva sinistra dell'Eufrate, poco lungi da Doura. Traversammo il fiume su una zattera. I soldati della Guardia Imperiale Partica, con le corazze dorate, su cavalli altrettanto splendidi, formavano una linea abbagliante lungo le sponde. Il mio inseparabile Flegone era pallidissimo. Persino gli ufficiali che mi accompagnavano non celavano la loro apprensione. Quell'incontro poteva nascondere un tranello. Opramoas, avvezzo a fiutare l'aria dell'Asia, si trovava a suo agio, si fidava di quel pericoloso amalgama di silenzio e di tumulto, di immobilità e di galoppate improvvise, di quel lusso profuso nel deserto come un tappeto sulla sabbia. Quanto a me, ero straordinariamente calmo. Come Cesare si fidava della sua barca, così io di quelle tavole su cui andava la mia sorte. Detti una prova di questa fiducia, rendendo subito la principessa a suo padre, anziché tenerla sotto custodia nelle nostre linee fino al mio ritorno. Promisi anche che avrei reso il trono d'oro della dinastia Arsacide che Traiano aveva portato via e di cui non sapevamo che farci, laddove la superstizione orientale vi annetteva un immenso valore. Il fasto di questi incontri con Osroe fu soltanto esteriore. In sostanza, non differivano granché dagli abboccamenti di due vicini che cercano di comporre amichevolmente una questione di muro divisorio. Ero alle prese con un barbaro raffinato, che si esprimeva in greco, tutt'altro che stupido, non necessariamente più perverso di me, tuttavia tanto indeciso da sembrare malsicuro. Le mie singolari discipline mentali m'aiutavano a captare quel pensiero sfuggente. Seduto in faccia all'imperatore dei parti, imparavo a prevedere e ad orientare le sue risposte. Entravo nel suo gioco, mi figuravo d'essere io Osroe nell'atto di contrattare con Adriano. Detesto i vaniloqui nei quali ciascuno sa in anticipo cosa cederà o cosa non cederà. La franchezza negli affari mi piace soprattutto come mezzo per semplificare le cose e progredire in fretta. I parti ci temevano, noi paventavamo i parti. Da questa reciproca paura poteva nascere la guerra. I satrapi la istigavano per interesse personale. Non tardai ad accorgermi che anche Osroe aveva i suoi quieto, i suoi palma. Farasmane, il più turbolento di quei principi semi-indipendenti assegnati alle frontiere, era ancor più pericoloso per l'impero partico che per noi. Mi hanno accusato di aver fiaccato con l'elargizione di sussidi quell'ambiente molle e malefico. Era danaro investito bene. Ero troppo sicuro della superiorità delle nostre forze per irrigidirmi su un amor proprio idiota. Ero pronto a tutte le concessioni formali, fatte solo di prestigio, ma a nessun'altra. La cosa più difficile fu persuadere Osroe che, se facevo poche promesse, era perché intendevo mantenerle. Tuttavia mi credette, o finse di credermi. L'accordo concluso tra noi durante quella visita dura ancora. Da 15 anni a questa parte nessuno di noi ha turbato la pace alle frontiere. Conto su di te, Marco, affinché questo stato di cose perduri dopo la mia morte. Diciotto mesi dopo mi feci iniziare a Eleusi. In un certo senso questa visita a Osroe aveva segnato una svolta nella mia vita. Invece di tornare a Roma avevo deciso di dedicare qualche anno alle province greche e orientali dell'impero. Atene diventava sempre più la mia patria, il mio centro. Ci tenevo molto a piacere ai greci e anche a ellenizzarmi il più possibile. Ma quella iniziazione, motivata in parte da considerazioni politiche, costituì tuttavia un'esperienza religiosa senza pari. Quei riti solenni non fanno che simboleggiare gli avvenimenti dell'esistenza umana, ma il simbolo va oltre l'atto, spiega ciascuno dei nostri gesti in termini di meccanica eterna. L'insegnamento che si riceve a Eleusi deve restare segreto, del resto ha ben poche probabilità di venir divulgato, in quanto è, per sua natura, ineffabile. Una volta formulato, non condurrebbe che alle certezze più banali. In questo appunto risiede la sua profondità. I gradi più elevati che mi vennero conferiti in seguito nel corso di conversazioni private con lo Ierofante nulla o quasi nulla aggiunsero all'emozione iniziale che il più oscuro dei pellegrini, partecipando alle abluzioni rituali o dissetandosi a quella sorgente, prova in egual misura. Avevo sentito le dissonanze risolversi in accordo. Per un istante mi ero posato su una sfera diversa. Avevo contemplato da lungi, ma anche molto da vicino, quella teoria umana e divina nella quale occupo il mio posto anch'io, quel mondo nel quale esiste ancora il dolore, non più l'errore. La sorte umana, quel vago tracciato al quale un occhio meno esercitato attribuisce tante imperfezioni, scintillava come le scie del cielo. A questo punto conviene che io ti accenni un'abitudine che per tutta la vita mi indusse a percorrere sentieri meno segreti di quelli di Eleusi, ma che in fin dei conti vi corrono paralleli. Voglio intendere lo studio degli astri. Sono stato sempre amico degli astronomi e cliente degli astrologi. La scienza di questi ultimi è incerta, forse veritiera nell'insieme. Dato che l'uomo, particella dell'universo, è governato dalle leggi medesime che presiedono al cielo, non è poi così assurdo cercare lassù i temi delle nostre esistenze, le fredde simpatie che partecipano ai nostri successi e ai nostri errori. Non c'è sera d'autunno in cui io mancai mai di salutare, a sud dell'acquario, il coppiere celeste, il dispensatore insigne sotto il cui segno sono nato. non mancavo mai di riconoscere in ciascuna delle loro evoluzioni Giove e Venere, i moderatori della mia vita, né di misurare l'influenza del funesto Saturno. Ma se questa strana proiezione dell'uomo sulla volta stellare spesso turbava le mie veglie, ancor più fortemente mi interessavo alle matematiche celesti, speculazioni astratte alle quali i grandi corpi incandescenti ci inducono. Uniformandomi ai più temerari tra i nostri sapienti, ero incline a ritenere che la Terra partecipi anch'essa a quel periplo notturno e diurno del quale le processioni sacre di Eleusi rappresentano tutt'al più il simulacro umano. In un mondo dove tutto non è che turbine di forze, danza di atomi, dove tutto si trova contemporaneamente in alto e in basso, al centro e alla periferia, non riuscivo a farmi convinto dell'esistenza d'un globo immobile, d'un punto fisso che non fosse al tempo stesso in moto. Altre volte i calcoli sul ricorso degli equinozi, già stabilito da Iparco di Alessandria, assillavano le mie veglie notturne. Vi ritrovavo, sotto forma di dimostrazione e non più favola o simbolo, lo stesso mistero eleusino dei corsi e ricorsi. La spiga della Vergine, ai nostri giorni, non si trova più in quel punto della carta dove l'ha segnata Iparco, e questa variazione è il compimento d'un ciclo che conferma le ipotesi dell'astronomo. Lentamente, ineluttabilmente, il firmamento tornerà a essere quello che era ai tempi di Iparco. E sarà nuovamente quello che è oggi ai tempi di Adriano. Quel disordine si integrava nell'ordine, il mutamento faceva parte d'un piano che l'astronomo era in grado di prevedere in anticipo. Lo spirito umano rivelava la sua partecipazione all'universo per il fatto d'aver concepito teoremi esatti così come a Eleusi, con le grida rituali e le danze. L'uomo che contempla gli astri, e gli astri contemplati ruotano ineluttabilmente verso la loro fine segnata in qualche punto del cielo. Ma ogni momento di questa caduta rappresentava un tempo d'arresto, un riferimento, il segmento d'una curva solida quanto una catena d'oro. Ogni slittamento ci riconduceva a quel punto che oggi, dato che per caso ci siamo trovati a viverci, ci appare un centro. L'estate successiva al mio incontro con Osroe la trascorsi in Asia Minore. Sostai nella Bitinia per sorvegliare di persona il taglio delle foreste di Stato. A Nicomedia, città luminosa, civile, raffinata, presi alloggio in casa del procuratore della provincia, Cneo Pompeo Proculo, nell'antica residenza del re Nicomede, ancora impregnata dei ricordi voluttuosi di Giulio Cesare giovane. La brezza della Propontide ventilava quelle sale fresche e buie. Proculo, un uomo di gusto, organizzò qualche riunione letteraria in mio onore. Sofisti di passaggio, gruppi di studenti e di letterati si riunirono nei suoi giardini in riva a una sorgente dedicata al dio Pan. Di tanto in tanto un servo vi immergeva una grande anfora di argilla porosa e i versi più limpidi sembravano opachi a paragone di quell'acqua pura. Una sera si dette lettura d'un lavoro piuttosto astruso di Licofrone, che mi è caro peraltro per le folli combinazioni di armonie, di allusioni e di immagini. Quel suo sistema complesso di riflessi e di echi. Un giovanetto in disparte ascoltava quelle strofe ardue con un'attenzione pensosa e distratta al tempo stesso, e io pensai subito a un pastore nel cuore della foresta, vagamente in ascolto del grido misterioso d'un uccello. Non aveva né tavolette né stilo con sé. Seduto sui bordi della vasca sfiorava quella bella superficie levigata con le dita. Seppi che suo padre aveva occupato una modesta carica nell'amministrazione dei vasti domini imperiali. Affidato giovanissimo alle cure d'un suo avo, lo scolaretto era stato inviato presso un ospite dei suoi genitori, che era armatore a Nicomedia e che a quella povera famiglia appariva ricco. Quando gli altri si furono allontanati, lo trattenni. Era poco istruito, ignaro quasi di tutto, ma riflessivo, ingenuo. Conoscevo Claudiopoli, la sua città natale. Riuscii a farlo parlare della sua casa, al limitare delle grandi foreste di pini che forniscono l'albero maestro alle nostre navi, del tempio di Attis, situato sulla collina, di quelle musiche stridenti che gli erano care, dei bei cavalli del suo paese, delle strane sue divinità. Quella voce lievemente velata si esprimeva in greco con accento asiatico. Improvvisamente, nel sentirsi ascoltato o forse anche osservato, il ragazzo si confuse, arrossì, ricadde in uno di quei silenzi ostinati ai quali mi abituai ben presto. Si abbozzò comunque un'intimità. In seguito mi accompagnò in tutti i miei viaggi. E cominciarono per me alcuni anni favolosi. Antinoo era greco. Sono risalito nelle memorie di quella famiglia antica e oscura sino all'epoca dei primi coloni arcadi sulle sponde della Propontide, ma l'Asia aveva prodotto su quel sangue un po' acre l'effetto della goccia di miele che rende torbido e aromatico un vino puro. Ritrovavo in lui le superstizioni d'un discepolo d'Apollonio, il culto monarchico d'un suddito orientale del gran re. La sua presenza era straordinariamente silenziosa, ma seguito come un animale o come un genio familiare. Aveva le infinite capacità di allegria e di indolenza d'un cucciolo, la selvatichezza, la fiducia. Quel bel levriero, ansioso di carezze e di ordini, si distese sulla mia vita. Ammiravo quell'indifferenza quasi altera verso tutto ciò che non costituiva il suo piacere o il suo culto. Essa suppliva in lui al disinteresse, allo scrupolo, a tutte le virtù volute, austere. Mi stupiva quella sua aspra dolcezza, quella devozione torva che impegnava l'essere intero e, tuttavia, quella sottomissione non era cieca. Quelle palpebre, tante volte abbassate nell'acquiescenza o nel sogno, si levavano. Gli occhi più attenti del mondo mi scrutavano in viso. Mi sentivo giudicato, ma lo ero come lo è un dio da un suo fedele. Le mie asprezze, i miei attacchi di diffidenza, ne ebbi più tardi, erano pazientemente, gravemente accettati. Sono stato padrone assoluto una volta sola e di un solo essere. Quando mi volgo indietro a quegli anni mi sembra di ritrovare l'età dell'oro. Tutto era facile. Le fatiche d'altri tempi erano compensate da una facilità quasi sovrumana. Viaggiare era un gioco, un piacere controllato, noto e abilmente praticato. Il lavoro incessante non era che un altro modo di godere. La mia vita, in cui tutto è arrivato tardi, il potere, la felicità, assumeva lo splendore del meriggio, la radiosità solare delle ore di siesta, quando tutto è soffuso di un'atmosfera dorata, gli oggetti della nostra camera e il corpo disteso al nostro fianco. La passione appagata alla sua innocenza, fragile quasi quanto ogni altra. Il resto della bellezza umana declinava al rango di spettacolo. Cessava d'essere quella selvaggina di cui ero stato il cacciatore. Quell'avventura iniziata in modo banale arricchiva la mia vita, ma la rendeva d'altro canto più semplice. L'avvenire contava poco. Cessavo di interrogare gli oracoli. Le stelle non furono più, da allora in poi, che disegni mirabili sulla volta del cielo. Non avevo osservato mai con altrettanto rapimento il pallore dell'alba sull'orizzonte delle isole, la frescura delle grotte consacrate alle ninfe, abitate da uccelli migratori, il lento volo delle quaglie al crepuscolo. Mi diedi a rileggere i poeti. Alcuni mi sembrarono migliori, la maggior parte peggiori di prima. Scrissi versi che mi parvero meno mediocri del solito. Condussi Antinoo nell'Arcadia dei suoi avi. Le foreste vi restavano impenetrabili come ai tempi in cui vi avevano abitato quegli antichi cacciatori di lupi. A volte, con un colpo di frusta, un cavallerizzo fugava una vipera. Sulle cime sassose il sole era rovente come nel pieno dell'estate. Il giovinetto, addossato alla roccia, sonnecchiava. La testa reclinata sul petto, i capelli sfiorati dalla brezza, simile a un endimione del giorno. Una lepre che il mio cacciatore giovinetto aveva addomesticata con infinita pazienza fu sbranata dai cani. Fu l'unico dispiacere di quei giorni senza nubi. La barca che il mercante Erasto di Efeso mi cedeva per navigare nell'arcipelago gettò l'ancora nella baia di Falero. Mi stabilì ad Atene come un uomo che torna a casa sua. Osai metter mano a quella bellezza. Tentai di rendere perfetta quella città ammirevole. Dopo una lunga decadenza, Atene si ripopolava nuovamente e ricominciava a crescere dopo un lungo periodo di declino. Ne raddoppiai l'estensione. Mi prefiguravo un'Atene rinnovata, la città di Adriano al fianco di quella di Teseo. Tutto era da riordinare, da ricostruire. Sei secoli innanzi era stato abbandonato appena iniziato il grande tempio consacrato a Giove Olimpico. I miei operai si misero al lavoro. Atene conobbe di nuovo l'attività gioiosa che non aveva assaporata più dai tempi di Pericle. Qualche tempo più tardi, nella Frigia, sui confini dove la Grecia e l'Asia si confondono, ho avuto l'immagine più lucida e completa di quella felicità. Eravamo accampati in una località deserta e selvaggia, dove la tomba di Alcibiade, il quale morì laggiù, vittima delle macchinazioni dei satrapi. Avevo fatto collocare su quel sepolcro abbandonato da secoli una statua di marmo pario, l'effigie di quell'uomo, che fu tra quelli che la Grecia ha amato di più. Avevo ordinato altresì che ogni anno vi si celebrassero riti commemorativi. Gli abitanti del villaggio vicino si erano aggregati alle persone del mio seguito per la prima di quelle cerimonie. Fu sacrificato un torello e una parte della sua carne fu riservata per il festino della sera. Fu improvvisata una corsa di cavalli nella pianura. Si ebbero danze alle quali il fanciullo di Bitinia prese parte con grazia impetuosa. Più tardi, quando fu spento l'ultimo fuoco, gettò indietro la sua bella gola e cantò. Mi piace stendermi al fianco dei morti per misurarmi con loro. Quella sera paragonai la mia vita a quella di quel gaudente già prossimo alla vecchiaia che era caduto in quel luogo, trafitto dalle frecce, difeso strenuamente da un amico giovinetto e pianto da una cortigiana ateniese. La mia giovinezza non aveva preteso il prestigio di quella di Alcibiade, ma la mia varietà eguagliava e sorpassava la sua. Io avevo governato un mondo infinitamente più vasto di quello nel quale l'Ateniese era vissuto. Vi avevo mantenuto la pace, l'avevo attrezzato come una bella imbarcazione ben munita per un viaggio che durerà molti secoli. Avevo lottato in ogni modo per secondare il senso del divino nell'uomo, senza tuttavia sacrificare a esso l'umano. La mia felicità era il mio compenso. Gianni Musi ha letto Memorie di Adriano di Margherita Yourcenar. Riduzione e regia di Adelchi Battista. Coordinamento di Fabiana Carobolante. Il terzo anello @rai.it.